Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Primo giorno di vere riaperture tra code per mezzi pubblici e parrucchieri, poca gente tra bar e ristoranti. Crescono i guariti, in calo i contagi, vittime al minimo dal lockdown. In Lombardia 24 decessi, aumento più basso da febbraio. Virus oltre 100 stati, chiedono un'inchiesta alla Cina, si difende. Dagli Stati Uniti primi segnali positivi dai test per il vaccino. Turismo e caos frontiere, Di Maio, Italia aperta, no alle blacklist. Merkel e Macron propongono 500 miliardi dall'Europa per la ripartenza. E questi erano i titoli di Effetto Notte, questa sera con me Marta Cagnola in diretta fino alle 22, come sempre 349-238-6666, il numero per i vostri sms e whatsapp, e poi ci sono anche i miei social, @ Marta Cagnola su Twitter e su Instagram. Ma come tradizione di Effetto Notte dobbiamo partire con il riassunto delle notizie del giorno, e ovviamente in primo piano quanto è accaduto, ma quanto sta ancora accadendo in questo lunedì 18 maggio, giorno di riapertura delle nostre città. Ristorazione, negozi di abbigliamento, estetica. Tra breve avremo anche degli approfondimenti tra Milano e Roma, ma parleremo anche a lungo di Bari. Prima però il punto generale con immagini simboliche che arrivano da Bergamo, tra le città più colpite dall'epidemia. I primi fiori per i troppi defunti di questi mesi, il primo volo atterrato dopo un lungo blocco. A Bergamo, nella città più ferita, la ripartenza sta nell'immagine dei cancelli di nuovo aperti del cimitero e della cappella dove si torna a celebrare messa. Ma la ripartenza qui sta anche nei primi passeggeri provenienti dalla Bulgaria che sbarcano all'aeroporto di Orio al Serio. Sono i simboli di una nuova fase, nella consapevolezza però che questa è la settimana più difficile, per dirlo col ministro degli affari regionali Francesco Boccia. Dalla curva dell'epidemia dipenderanno i prossimi passi del governo e le decisioni delle regioni. Per ora i governatori si muovono a velocità diverse tra le spinte in avanti del Veneto di Zaia, che autorizza gli spostamenti anche nelle tre regioni confinanti per visitare i congiunti, o le frenate di De Luca in Campania, che al contrario ritarda le aperture. Non ho alcun peso sulla coscienza, si difende invece Attilio Fontana, presidente della Lombardia. Giovedì nuova riunione tra governo e regioni, e lungo quest'asse si muove anche il dibattito politico. Senza la spinta delle regioni non si sarebbero aperte molte attività, solo nel caos, accusa la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni. Raffaella Calandra, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Intanto i numeri della Protezione Civile fanno ben sperare. Oltre 2.000 guariti rispetto a ieri, i nuovi casi di contagio sono 451, 99 le vittime in 24 ore. L'incremento più basso in un giorno dall'inizio del lockdown, l'11 marzo. 24 i decessi in Lombardia, l'aumento più basso da febbraio. Numero delle vittime in forte calo anche in Spagna, oggi 59, 30 in meno rispetto a ieri. Preoccupante invece la situazione in America Latina, con un aumento in circa 36 ore di 20.000 contagi e 750 vittime. Il Brasile guida la triste classifica. Intanto solo oltre 100 i paesi del mondo che chiedono un'inchiesta sull'origine della pandemia. Un'inchiesta indipendente sulle origini del coronavirus sarà lanciata al momento opportuno. Prende tempo il direttore dell'OMS Ghebreyesus, dopo la spinta di Unione Europea, Australia e di un centinaio di paesi a fare chiarezza su cosa sia davvero accaduto lo scorso autunno. La risoluzione euro-australiana non cita esplicitamente la Cina per non aumentare ulteriormente la tensione diplomatica. Ghebreyesus ha difeso la linea tenuta dalla sua organizzazione. Abbiamo suonato l'allarme presto e lo abbiamo fatto spesso, ha spiegato. Pechino intanto punta a rinviare la apertura dell'indagine a pandemia finita e, attraverso il presidente Xi Jinping, perde ancora una volta l'occasione per fare luce sui suoi colpevoli ritardi. Abbiamo agito con apertura, trasparenza e responsabilità, ha detto Xi, dimenticando le censure e le sanzioni contro i medici e i giornalisti che per primi denunciarono l'insorgenza di questo misterioso virus. In cambio il presidente cinese ha promesso di investire 2 miliardi di dollari nella ricerca di un vaccino che, assicura, sarà messo a disposizione dell'intera comunità mondiale. Punto quest'ultimo condiviso dal presidente presidente francese Macron, mentre la cancelliera tedesca Merkel ha fatto trapelare la necessità di una riforma dell'OMS. Infine, da segnalare l'attacco americano proprio contro l'OMS. Il segretario alla sanità Azar ha definito clamorosamente fallimentare il suo operato nel fornire informazioni sulla pandemia. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Dato però dagli Stati Uniti arrivano primi segnali positivi sui vaccini. Il nome in codice è mRNA-1273. Si tratta di un vaccino sperimentale contro il coronavirus che, dai primi test effettuati su volontari sani, ha indotto una risposta immunitaria al virus del Covid-19. Le dosi del vaccino nei primi studi clinici sono apparse sicure e ben tollerate dall'uomo e mostrano dei segnali incoraggianti sulla capacità che possano proteggere le persone contro il nuovo coronavirus. Il vaccino sperimentale è stato sviluppato dalla società di biotecnologie americane Moderna. L'amministratore delegato della società Stephen Bancel ha detto in conferenza stampa che c'è un'alta probabilità che il vaccino di Moderna possa dare una protezione dal Covid-19 nelle persone. La società stima di riuscire a produrre le prime dosi di un vaccino in autunno per le situazioni di emergenza. Oltre a Moderna ci sono almeno una decina di aziende che stanno testando sull'uomo i loro vaccini anti-Covid-19 in tutto il mondo. Il valore delle azioni Moderna a Wall Street è salito fino al 26%. L'ottimismo ha spinto anche i mercati finanziari europei. Riccardo Barlano, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ora torniamo in Italia per un tema vitale per l'economia del nostro paese, il turismo. Il nostro governo dice no all'ipotesi di corridoi tra singoli stati. Frontiere aperte dal 3 giugno, l'Italia è pronta ad accogliere turisti ed è inammissibile che ci siano liste nere tra i paesi dell'Unione Europea. A chiarirlo è il ministro degli Esteri Luigi Di Maio durante una videoconferenza con i colleghi di Germania, Spagna, Austria, Grecia, Croazia, Portogallo, Malta, Slovenia, Cipro e Bulgaria. I corridoi turistici creati tra i paesi dell'Unione con accordi bilaterali sono contrari allo spirito europeo, dice Di Maio, e le blacklist danneggiano il turismo di tutti i paesi. Se siamo nel mercato unico, se c'è la libertà di circolazione, e allora, superata questa prima fase della pandemia, adesso tutti i paesi devono riaprire i confini, dobbiamo condividere le regole per far viaggiare in sicurezza i turisti durante questa stagione turistica estiva. Di Maio garantisce che ogni settimana ci saranno aggiornamenti sull'andamento del coronavirus in Italia, si impegna a cancellare gli altri paesi dell'Unione dalla lista di sconsiglio vacanze della Farnesina e su questo chiede reciprocità. Fredda però la reazione della Germania, paese da cui partono tanti turisti. Con Italia e Spagna, paesi particolarmente colpiti dal coronavirus e dove sono ancora in vigore molte limitazioni, dice il ministro degli Esteri Heiko Maas, bisognerà continuare a parlare. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. 500 miliardi di euro per ricostruire e rilanciare l'Europa. E questa la proposta congiunta di Francia e Germania. Un fondo ad hoc in linea con quanto già discusso in sede di commissione, come conferma la presidente von der Leyen. Risorse quelle europee fondamentali per il rilancio anche del nostro paese, viste le difficoltà del settore privato e del pubblico. Cifre quasi inverosimili le definisce Confcommercio, consumi che nel mese di aprile hanno subito un crollo del 47,6%, con il rischio di danni permanenti all'economia, avverte il presidente Carlo Sangalli. Perdite che si concentrano su pochi importanti settori come il turismo e l'intrattenimento, più soggetti a forme di distanziamento e rigidi protocolli di sicurezza, ma anche la mobilità e l'abbigliamento. Quanto al PIL, Confcommercio osserva che nonostante un rimbalzo del 10% stimato a maggio, rimarrà sempre un meno 16 rispetto all'anno precedente. Di qui la richiesta di Sangalli. Sosteniamo questa voglia di ripresa con indennizzi più robusti e liquidità vera e con più certezze. Serve un piano di ricostruzione complessiva del paese che oggi ancora non c'è. Emergenza sanitaria che travolge anche gli 8.000 comuni italiani. Secondo Demoscopica, nel bimestre marzo-aprile, le casse degli enti locali hanno subito una perdita di oltre il 65% delle entrate derivanti dai principali tributi locali. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. Va in archivio con un risultato positivo il primo giorno di collocamento del nuovo BTP Italia lanciato dal Tesoro. La domanda dei risparmiatori italiani ha raggiunto i 4,01 miliardi di euro, mentre i contratti della 16ª emissione destinata a finanziare i provvedimenti per fronteggiare l'emergenza Covid-19 sono stati 109 mila. E grande successo per il Salone del Libro che proprio a causa dell'emergenza si è svolto esclusivamente online. Il telefono suonò che era appena appena riuscito a pigliare sonno. o almeno a così gli parse. Antonio Manzini, che legge il primo capitolo di Riccardino, l'ultimo romanzo di Andrea Camilleri con Montalbano protagonista, che per volontà dell'autore verrà pubblicato postumo. È stato uno dei momenti di maggior successo del Salone del Libro di Torino, edizione extra che si è svolta online sul sito e i social della manifestazione. 4 giorni, 140 ospiti, più di 60 incontri. Incontri snelli, di circa 20-30 minuti ciascuno, ma di grande intensità. Da Salman Rushdie a Donna Haraway, da Alessandro Barbero, che ha tenuto la lezione inaugurale, a Samantha Cristoforetti, da Dacia Maraini a Giovanotti. Su Facebook e YouTube ci sono state oltre 1.200.000 visualizzazioni dei contenuti. Ci troviamo fra le mani, ha commentato il direttore del Salone Nicola Lagioia, il prototipo di un modello nuovo e di successo che non si sostituisce ma si aggiunge a quello classico e irrinunciabile. L'edizione fisica del Salone per ora è stata rimandata all'autunno, ma non c'è ancora alcuna data. Alessandra Tedesco, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Dopo la Francia, l'Olanda e il Belgio, il coronavirus ha mietuto un'altra vittima nella famiglia del calcio europeo. La Federcalcio scozzese ha deciso infatti di concludere con effetto immediato la stagione 2019-2020, assegnando al Celtic il suo 51esimo titolo nazionale, il nono consecutivo record in Scozia. Clamore ha suscitato anche la notizia che il paese patria del golf non riaprirà i suoi green almeno fino al 28 maggio. E scenari alternativi in vista anche per la Ferrari, che in attesa del via del Mondiale di Formula 1 e viste le limitazioni di salary cap e personale nel paddock, che saranno comunque imposte, sta ipotizzando di prendere parte anche al campionato americano IndyCar, quello della celebre 500 miglia di Indianapolis. Dario Ricci ha chiesto un parere a Luca Filippi, pilota di Formula E che pure ha corso per diverse stagioni proprio in IndyCar. Beh, io credo che due marchi come Ferrari e anche Lamborghini negli Stati Uniti verrebbero accolti veramente con un entusiasmo che sarebbe incalcolabile. Se ci fosse un vero interesse o delle necessità, io credo che potrebbero essere due programmi differenti che possono coesistere, che possono anche avere sinergie molto forti. Marchi come Ferrari e Lamborghini hanno una grande fetta del loro mercato che negli Stati Uniti è importante. E quindi perché no? Anzi, io lo spero, ma spero anche che chiaramente i programmi di Formula 1 continuino ad andare avanti e anche a essere vincenti. Chiudiamo il primo capitolo di Effetto Notte, la pausa per la viabilità e poi saremo ancora insieme. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Primo giorno di vere riaperture tra code per mezzi pubblici e parrucchieri, poca gente tra bar e ristoranti. Crescono i guariti, in calo i contagi, vittime al minimo dal lockdown, in Lombardia 24 decessi, aumento più basso da febbraio. Virus, oltre 100 stati chiedono un'inchiesta, la Cina si difende, dagli Stati Uniti primi segnali positivi dai test per il vaccino. Turismo e caos frontiere. Di Maio, Italia aperta, no alle blacklist. Merkel e Macron propongono 500 miliardi dall'Europa per la ripartenza. Ed eccoci ancora insieme con Effetto Notte, questa sera con me Marta Cagnola, per ripercorrere un po' i fatti del giorno e, come di consueto a quest'ora, cerchiamo di capire com'è andata la giornata politica. Ovviamente una giornata segnata dalle riaperture, questo attesissimo ma anche temuto 18 maggio. Ci colleghiamo con Barbara Fiammeri del Sole 24 Ore. Buonasera Barbara. Buonasera a tutti. Allora, data attesissima, riaperture attese, temute, contrastate. Tra l'altro ci sentiamo dopo un weekend piuttosto tumultuoso tra Presidenza del Consiglio e Regioni. Alla fine tutti d'accordo? Ah, diciamo tutti necessariamente d'accordo, nel senso che mi sembra un accordo inevitabile, perché nessuno in questo momento, né il governo né le regioni, si potevano prendere la responsabilità di far saltare insomma un'intesa e comunque di far regnare l'incertezza. Già c'è comunque questa incertezza, ma farla protrarre ulteriormente e aggravare. Credo che in questo momento tutti noi, parlo a tutti noi cittadini italiani, dobbiamo abituarci a questa fase 2. Non abbiamo capito bene, non abbiamo per esempio capito il governo ha parlato, il premier l'altra sera ha parlato di rischio calcolato, poi sentiamo i virologi che ci dicono che in realtà la situazione è ancora preoccupante, quindi dobbiamo sempre essere molto responsabili, essere molto attenti. Allo stesso tempo i governatori insistono per riprendere le attività, perché appunto altrimenti se non moriamo di coronavirus moriamo di crisi, e quindi diciamo è difficile in questa fase secondo me riuscire a trarre un bilancio, no? Un messaggio chiaro, e credo che anche questa incertezza di oggi sui negozi, sui bar, cioè che non ci sono state resse, affollamenti, è dovuta anche a questa incertezza che ci sovrasta un po', è come se non capiamo bene ancora cosa fare. Immagino che piano piano, con l'andare avanti della settimana, poi tutto questo entrerà, no? Si rientrerà piano piano nella normalità, dobbiamo abituarci. Sì, abbiamo oggi visitato un po' di città italiane, ascolteremo durante il nostro effetto notte come è andata la situazione a Milano, come è andata la situazione a Roma. Giornata avara di dichiarazioni politiche, perché molti politici sono andati o a tagliarsi i capelli o a bere il caffè o a farsi fotografare. Oggi c'era Matteo Salvini a pomeriggio 5 che ha parlato proprio delle regioni. Devo dire che hanno fatto un gran lavoro nelle ultime ore, per star vicino ai cittadini, ai commercianti, agli imprenditori, ai baristi. Quasi tutte le regioni italiane ci hanno messo del loro, ci hanno messo soldi, ci hanno messo garanzie, al di là dei colori politici. Sì, hai ragione, c'è De Luca che in campagna invece rimanda, ritarda, però fa un danno ai lavoratori, ai commercianti campani e napoletani, dal mio punto di vista. Beh, poi loro due non erano già d'accordo sulla scelta degli occhiali di Salvini, che a De Luca non erano piaciuti. Ma diciamo che De Luca, secondo me, al di là insomma del fatto che è un governatore abbastanza sui generis, no? Per usare un eufemismo, però in questo caso ha adottato una linea sua che poi non è... cioè va anche capita, anche perché non è stato solo lui ad avere delle perplessità, perché è vero come dice Salvini, cioè che i governatori spingevano, spingevano, però allo stesso tempo il governo cosa ha fatto alla fine? Noi siamo andati avanti per settimane a parlare dei protocolli INAIL, adesso non ne parla più nessuno, perché ormai i protocolli INAIL sono stati scavalcati da quelli che sono i protocolli delle regioni. Allora De Luca ha accusato il governo di aver fatto uno scaricabarile, e quindi lui dice: se questo è così, io non faccio riaprire fino a quando le cose non sono a posto. Cioè, e secondo lui nella sua regione ancora non c'erano le condizioni per riaprire immediatamente oggi, ma credo abbia rinviato a giovedì. Però questo tema, sì, lo dico perché il tema dello scaricabarile, o comunque del fatto che a un certo punto, io credo, ma è una mia opinione, lo sottolineo, non perché ho notizie in tal senso, però credo che il fatto che il governo si sia ridotto all'ultimo, che non poteva permettersi ulteriori, come dire, proroghe, incertezze, perché il pressing era molto forte delle categorie, credo che a un certo punto le regioni hanno posto una sorta di out al governo, e il governo ha capitolato. Io l'ho letta un po' così, diciamo, la giornata di sabato e domenica, perché sono state giornate molto strane. Giornate e nottate anche. Giornate e nottate in cui ha degli annunci, poi subito dopo magari arrivavano delle frenate, dei controordine, quindi c'è stato un po' un gioco delle parti, e alla fine diciamo ha prevalso appunto la linea delle regioni e il governo. Io ho anche scritto a questo proposito, proprio per dire nei pezzi che ho fatto, che da un lato io ho parlato di un'abdicazione del governo, non dello Stato nei confronti delle regioni, però c'è da chiedersi se questa abdicazione sia stata una furbata oppure sia stata un'azione di debolezza, cioè se poi questa cosa è stata imposta oppure se sotto sotto in fondo al premier, al governo non ha fatto piacere, forse è sbagliata l'espressione, ma comunque non sfrutti il fatto che adesso la responsabilità è delle regioni, perché certo. Ci ricordiamo anche, no, su Milano, sulla Lombardia in generale, noi siamo passati da delle fasi in cui a un certo punto si diceva no, riaprite tutto, il famoso aperitivo di Zingaretti a Milano, che poi è quello dove molto probabilmente lui ha contratto il virus, e altre situazioni del genere, no? Esponenti di spicco della maggioranza, dell'opposizione, che dicevano apriamo, e poi abbiamo visto come è andata a finire. Quindi adesso secondo me bisogna essere, dico cose che dicono tutti, però molto prudenti. Io per esempio dal mio punto di vista, cioè, mi hanno chiesto che cosa hai fatto oggi. E ecco, io ho detto, Barbara, cosa hai fatto oggi? Sei andata a bere il caffè come Salvini? Io no, non me la sono sentita, sono rimasta, sono uscita come sono sempre uscita in questo periodo, cioè facendo delle cose che devo fare, di assistenza ai familiari, oppure del fare la spesa, però non me la sono sentita di uscire. Ripeto, io sarei curiosa di sentire cosa hanno fatto i nostri ascoltatori, anzi se ce le vogliono scrivere al 349-238-6666, così mi immagino cosa hanno fatto oggi. Ti dico un'altra cosa, parlavi di quello che non c'era nel discorso di Conte e che non c'è stato poi nelle decisioni del governo. Un'altra clamorosa sparizione da chi l'ha visto è il testing, tracking, tracing. Certo. Chi l'ha visto? Ma infatti noi stiamo affrontando, a mio parere, questa fase 2 un po' al buio, nel senso che è molto facile, la decisione di chiudere tutto sommato è molto più facile di quella di riaprire, perché quando chiudi vai in una situazione di protezione, ti metti in protezione, no? Quindi chiudi tutto, non uscite più, no? Restate a casa, e quindi il messaggio è molto semplice, è chiaro. Adesso invece è riapriamo, ma riapriamo come? Avevano promesso, e appunto il tracciamento dicono che arriverà probabilmente a giugno, vedremo. Poi avevano promesso i tamponi di massa, non ci sono tamponi, non abbiamo i reagenti, non è un problema, attenzione, io non sto, come dire, sparando sulla Croce Rossa, non è un problema solo italiano, perché noi siamo in Europa, per esempio, la nazione che ha fatto in assoluto più tamponi, quindi non è che non li facciamo, ma purtroppo essendo stati aggrediti così in modo così forte dal virus, ne dovremmo fare molti di più, non siamo in grado di farli, ci sono molte persone, anche credo Marta, soprattutto tu che sei a Milano puoi attestarlo meglio di me, però anche qui a Roma persone che sono state male e che ancora non sanno se hanno avuto il coronavirus o meno, perché il tampone non l'hanno potuto fare, nessuno gliel'ha fatto, il famoso numero verde, chiama, l'unica risposta che si sono sentiti dare è restate a casa, state al caldo e misurate la febbre. E quando starete male. Quindi questa cosa qui è chiaro che lascia un po' interdetti, ci sono persone che a distanza anche di un mese sono ancora positive, e quindi pensiamo a persone che hanno fatto il tampone. Conosco una persona, un portavoce, un esponente del governo, di un ministro, che è ancora positivo al test del coronavirus, dopo 40 giorni sono ancora positiva ed è stata sempre a casa. Giustamente ha detto, ma io ho fatto il tampone. E lei ha fatto il tampone perché una persona con cui aveva viaggiato era finita in ospedale, quindi finendo in ospedale quella persona perché con sintomi importanti, tutte le persone che questa persona aveva contattato sono state appunto tracciate e gli è stato fatto il tampone. Ma lei stessa mi ha detto, ma io chissà con quante persone nel frattempo ho parlato, perché sono una delle tante asintomatiche. Certo. E quindi se una persona, ad esempio, è positiva per così tanto tempo, noi avevamo in mente la quarantena dei 15 giorni, ma se invece la quarantena è proprio una quarantena, nel senso che sono passati 40 giorni, ancora quando fai il tampone risulti positivo, pensiamo a quello che può essere veramente la propagazione del virus. Per questo, cioè, stiamo attenti, perché poi non sappiamo, appunto, ci dicono il virus si è indebolito, poi i virologi dicono no, non è vero, non si è indebolito. Stiamo brancolando un po' tutti nel buio, Barbara. Sì. Voglio aprire un ultimo breve capitolo con questa affermazione di Luigi Di Maio. Ho appena concluso una riunione importante promossa proprio dalla Germania insieme a noi, al Portogallo, alla Spagna, all'Austria, alla Slovenia, alla Croazia, a Malta, a Cipro. E abbiamo stabilito stamattina che lavoreremo tutti quanti insieme per affrontare questa stagione turistica. Non ci saranno corridoi turistici creati sulla base di accordi bilaterali. Questo non è accettabile, è contro lo spirito europeo, se siamo nel mercato unico, se c'è la libertà di circolazione. Allora Barbara, per concludere, questo altro tema estremamente caldo, sì, estremamente... Speriamo che sia vero, perché per adesso io resto ferma alle dichiarazioni del cancelliere Kurz, austriaco, che ha aperto nei confronti della Germania e anche della Francia. I nostri confini restano sigillati. Però con noi restano sigillati, per cui non so, può darsi che questa riunione importante di cui si parla oggi Di Maio abbia cambiato l'opinione di chi appunto aveva deciso di chiudere le proprie frontiere agli italiani e all'Italia. Certo è che quest'estate la vedo difficile che avremo le masse di turisti per le spiagge, ma anche per le città italiane. Pensiamo, abbiamo visto oggi che a Venezia pochi hanno tirato su le saracinesche, perché è evidente che una città come Venezia, che vive prevalentemente di turismo, e soffre moltissimo in questo momento, anche perché andrebbe fatto, Venezia è ancora più complicato, ma anche a Roma parlo, no? Ci sono già a Roma d'estate, come tutte le città del resto, si svuota, e anche ristoranti e bar, comunque molti sono in edifici storici, spesso anche, non so, un piano seminterrato, con Lucernai, certo. Perché sono dei posti fantastici, bellissimi, però appunto se pensiamo al fatto che pensiamo al virus, all'idea di stare al chiuso in un ristorante, magari con il ricircolo d'aria interno, insomma non credo che le persone faccia molto piacere in questo momento, quindi sono tutti esercizi che rischiano e che andrebbero sostenuti, a mio parere, non solo da un punto di vista economico, ma anche logistico. Verissimo, per esempio, mi chiedo perché a Roma non vengono chiuse proprio al traffico le strade, non so, di tutta la parte che noi chiamiamo il ghetto ebraico e altre strade attorno a Piazza Navona, rendendole completamente, penalizzando tutto e consentendo ai ristoratori, ai bar, agli esercizi in generale di poter mettere tavolini all'esterno. Molto distanziati. Barbara, sì, ti ringrazio tantissimo, tanto stanno arrivando molti messaggi, dai, te ne leggo qualcuno. Ho fatto la mia vita consueta, sono uno di quelli che era preparato alla pandemia da sempre. Accidenti, riesco a lavorare lo stesso e vita sociale ne facevo poca anche prima, ma sono contento per i miei clienti che lavorano. Giuliano da Milano, alle 8 ero dal parrucchiere, con la prenotazione fatta una settimana prima mi sembrava di avere di fronte un astronauta. Io ho fatto colazione al solito, dobbiamo ricominciare. Ah, poi c'è anche chi è andato a fare tranquillamente un aperitivo con la consorte. Bene, bene, bene. Sto lavorando come sempre, gli allevatori e produttori di formaggio non si fermano mai. Giacomo, agricoltore bergamasco, sono grande fan del formaggio. Bravo Giacomo, sono molto contenta. Grazie a Barbara Fiammeri, a presto. Grazie, Barbara. A voi. Buonasera a tutti. Una breve pausa e poi andremo a Bari. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Primo giorno di vere riaperture tra code per mezzi pubblici e parrucchieri, poca gente tra bar e ristoranti. Crescono i guariti, in calo i contagi, vittime al minimo dal lockdown. In Lombardia 24 decessi, aumento più basso da febbraio. Virus, oltre 100 stati chiedono un'inchiesta, la Cina si difende. Dagli Stati Uniti primi segnali positivi dai test per il vaccino. Turismo e caos frontiere, Di Maio, Italia aperta, no alle blacklist. Merkel e Macron propongono 500 miliardi dall'Europa per la ripartenza. Eccoci come tutte le sere con Effetto Notte, questa sera sono io a tenervi compagnia, Marta Cagnola. 349-238-6666 il numero per i vostri sms e whatsapp, poi ci sono i miei social chiocciola Marta Cagnola. Abbiamo fatto un po' di giro d'Italia, oggi siamo stati a Roma, siamo stati a Milano, ma io vorrei partire questa sera dal sud e dare il benvenuto a Effetto Notte al sindaco di Bari, Antonio De Caro. Buonasera. Buonasera, buonasera a voi. Intanto voglio sapere com'è andato il taglio di capelli stamattina. È andato bene, erano due mesi, non ho mai portato i capelli così lunghi come in questi giorni, però c'era il lockdown, non era possibile. Ho provato con la macchinetta qualche giorno fa, ma mi sono fatto un buco in testa, ecco. Quindi ho preferito evitare. No, sembrava facile, guardare in televisione sembra una cosa semplice da fare, utilizzare la macchinetta, in realtà non è per niente semplice. E invece ci voleva Mino, ci vero? Voleva Mino, ci voleva sì, Mino. Ci voleva ecco. Mino, sì. Com'è andata la giornata a Bari? Perché so che lei è stato anche a fare una passeggiata nei viali del centro, a vedere come hanno reagito e come si sono organizzati i commercianti. Come è andata la giornata a Bari? È già stato sabato per vedere se stavano cominciando a fare le pulizie, sistemare le vetrine, la maggior parte dei negozi erano pronti, infatti stamattina hanno aperto tutti sulla strada principale, ce n'erano solo due chiusi, gli altri hanno aperto tutti per fortuna. Non è andata così in tutte le strade, quella è là dove sono stato stamattina, nella strada dello shopping più importante, però hanno riaperto quasi tutte le attività e ho trovato i gestori delle attività commerciali veramente molto molto determinati, per fortuna. La mia è una città commerciale, è cresciuta grazie al commercio e oggi c'erano tanti imprenditori che hanno riaperto le loro porte, hanno dimostrato che diciamo hanno ereditato dai loro genitori e dai loro nonni la stessa determinazione che ha portato questa città ad essere una delle capitali del commercio, per fortuna. Adesso vediamo come andranno le cose, oggi c'erano tanti clienti, ma credo dipenda anche dal una sorta di effetto rimbalzo rispetto ai due mesi di chiusura, quindi in tanti avevano voglia di uscire, di acquistare qualcosa. Giusto. Alcuni non si potevano permettere di fare acquisti perché purtroppo non hanno ancora la cassa integrazione in deroga, non hanno il bonus partite IVA, però chi si poteva permettere di fare acquisti oggi è uscito, ha acquistato qualcosa, è andato a bar, è andato al ristorante, siamo andati quasi tutti dal barbiere, dal parrucchiere, ci sono prenotazioni per due settimane, mi dicono. Lei nei primi giorni del lockdown ha fatto un po' il giro d'Italia e non solo, con alcuni video nei quali andava personalmente a sgridare alcuni giovani cittadini che si comportavano in maniera un po' disordinata. I baresi poi invece sono stati bravissimi. Beh, hanno dimostrato un senso di responsabilità incredibile, sono stati chiusi in casa, il numero dei contagi è bassissimo, meno di 100 contagi in città e il merito dei baresi. Certo, in quei giorni quelle immagini di tanti ragazzi che giocavano a pallacanestro, stavano nel parco assembrati a prendere il sole, stridevano un po' con le immagini che arrivavano da Bergamo, da Brescia, da Piacenza, con le persone in terapia intensiva, con le bare allontanate dalle camionette dell'esercito, facevano un po' impressione quelle immagini e facevano anche un po' a pugni con le immagini della mia città, quindi per quello ho fatto da sindaco quello che normalmente fanno i sindaci, il fratello maggiore, sono uscito per spiegare un po' a tutti, anche a quelli un po' più grandi di me con di età, di tornare a casa per interrompere la catena del contagio, e devo dire che il risultato è stato importante. Lo stesso appello mi sento di fare in questi giorni in cui si può uscire, però bisogna mantenere il distanziamento sociale, utilizzare la mascherina nei luoghi chiusi, anche nei luoghi aperti, se si può tenere la mascherina, soprattutto quando ci sono tante persone vicine in coda o all'interno o prima di entrare in un negozio, comunque conviene utilizzarla, perché comunque è dimostrato scientificamente che riduce le possibilità del contagio. Dobbiamo cercare di adottare tutte le prescrizioni, tutte le restrizioni necessarie a ridurre il contagio, altrimenti tra due settimane rischiamo di tornare in una situazione analoga a quella che poi ha costretto. No, non vogliamo nemmeno immaginarlo. Le chiedo un'ultima cosa, lei è anche presidente dell'ANCI, dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani, quindi immagino che in questo periodo sia stato anche in stretto contatto con i suoi colleghi, è stato un periodo importante per tutti i sindaci d'Italia. I sindaci hanno dimostrato ancora una volta che sono i custodi delle preoccupazioni ma anche delle aspirazioni dei nostri concittadini, quindi abbiamo dovuto custodire le loro paure quando erano chiusi in casa, custodire questi giorni la voglia di uscire, l'ambizione a poter tornare a occupare gli spazi pubblici, tornare a prendersi pezzettini di libertà, che è una libertà però condizionata al fatto che non devono aumentare i contagi, e quindi dobbiamo fare appello al nostro senso di responsabilità. I sindaci hanno dimostrato il loro senso di responsabilità già due mesi fa, quando abbiamo deciso di cedere il potere di ordinanza sulla salute, perché i sindaci sono l'autorità sanitaria locale, eppure abbiamo detto al governo fatelo voi, perché se dovessimo decidere 8.000 sindaci, apri le scuole, chiudi le scuole, apri il parco, cambio l'orario dei negozi, non riusciamo ad affrontare in maniera seria il virus, che va affrontato con una cabina di regia. E i sindaci sono stati efficaci e determinati quando lo Stato non riusciva ad erogare il bonus partite IVA e la cassa integrazione in deroga insieme alle regioni, ha chiesto ai sindaci di aiutare lo Stato, il Paese, a consegnare i buoni spesa, i kit alimentari per evitare tensioni sociali. Noi l'abbiamo fatto con umiltà, come facciamo sempre, non ci sono state per fortuna tensioni sociali nel Paese, anche grazie all'impegno dei sindaci italiani. Ah, guardi, io le dico che abito in un comune piuttosto piccolo, ma tutte le sere aspettavo il messaggio via Facebook del mio sindaco per sapere come andava la situazione, quindi sono d'accordo con lei. La ringrazio moltissimo, grazie al sindaco di Bari, Antonio De Caro, buon lavoro, a presto! Buon lavoro a voi. Grazie, grazie, ci abbracci Bari, magari quest'estate, un'altra una meta turistica possibile, Bari, Bari. Allora, il nostro Giro d'Italia, oggi Alessandro Arona è stato a Roma, sentiamo com'è andata la mattinata e la giornata a Roma. Il problema è che se sono due familiari, conviventi, se sono due colleghi, perché non possono stare insieme? Se viene una famiglia può stare insieme, ma deve fare una dichiarazione. Ma si può andare, cioè non verrà mai nessuno. Avrete la possibilità di allargarvi sul marciapiede, mentre tavoli la sera? Noi speriamo, diciamo, riproviamo in forma ridottissima col personale, tutto, perché diciamo così, questi ormai erano locali che negli anni, diciamo così, il grosso dell'incasso era dato dal turismo, che fortunatamente a Roma c'era, che però io penso che io tutti quanti sono più ottimisti, forse sarò troppo pessimista, ma io non vedo una cosa così a medio termine o a breve termine che ritorni il turismo, quindi secondo me alla fine problemi economici ci saranno, soprattutto sull'occupazione. E la lista degli appuntamenti è bella diciamo rimpolpata rispetto a quello che comunque ci aspettavamo, perché avevamo anche la sensazione che forse questa paura un po' latente poi fermasse la donna per i capelli, invece non è vero, è andata. Per le prossime due settimane siamo abbastanza incasinati. E questa era Roma nelle voci raccolte da Alessandro Arona. Ci colleghiamo invece con chi è stata a fare un giro oggi per Milano. Anna Marino, ciao Anna. Ciao Marta, sì. Cosa hai trovato oggi? In chiusura di giornata, insomma, la fase 2 in Lombardia si riconosce, Marta, dal rumore familiare di sottofondo continuo di auto, moto, voci di persone e dal fondo i parrucchieri, finalmente in zona Fiera Milano dove siamo stati e che ci hanno appunto raccontato come tra kit e appuntamenti in orario fisso e senza sgarrare, oggi sono riusciti a servire ben 9 persone alla volta, anche di lunedì abbiamo incontrato il barista, abbiamo incontrato il gommista, insomma, sentiamo appunto le loro voci. Com'è questa prima giornata? Faticosa. Le regole sono molto severe, innanzitutto sono un massimo di 9 persone per questo spazio, poi bisogna avere tantissima pazienza, tantissima, questa io credo che sia la regola numero uno. Capelli lunghissimi? Tantissimo, sì, sembrano tutti dei funghi in realtà, quanto ti ride. È un disastro, praticamente niente, che gli uffici sono tutti chiusi, dal caffè alle colazioni all'aperitivo se arriva qualcuno. La perdita è stata netta? Molto netta, più del 50%. Noi siamo tra quelli meno sfortunati, perché siamo gommisti, perlomeno il lavoro che è sviluppato quest'autunno si è spostato in avanti verso l'estate, che hanno spostato i termini, lo smontaggio delle gomme invernali. Certamente oggi è aumentato di molto, diciamo che oggi siamo intorno al 60-70%. Tutto un po' come prima, tranne che sono ancora chiuse le scuole e qualche altra attività tipo palestre. Allora adesso facciamo una brevissima pausa per la viabilità, poi ancora con Anna Marino sentiamo com'è andata questa giornata a Milano. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Primo giorno di vere riaperture tra code per mezzi pubblici e parrucchieri, poca gente tra bar e ristoranti. Crescono i guariti, in calo i contagi, vittime al minimo dal lockdown. In Lombardia 24 decessi, aumento più basso da febbraio. Virus, oltre 100 stati chiedono un'inchiesta, la Cina si difende, dagli Stati Uniti primi segnali positivi dai test per il vaccino. Turismo e caos frontiere, Di Maio, Italia aperta, no alle blacklist, Merkel e Macron propongono 500 miliardi dall'Europa per la ripartenza. E ritorniamo con il nostro effetto notte, abbiamo sentito il sindaco di Bari Antonio De Caro, intanto ci state anche raccontando cosa avete fatto oggi per il primo giorno di riapertura. Alessandra dalla provincia di Cagliari: non ho fatto niente di nuovo, scrive, niente caffè o aperitivo, ho fatto delle commissioni ma sinceramente non me la sento ancora di riprendere tutto come se niente fosse, è stato un periodo che mi ha permesso di avvicinarmi allo yoga e alla meditazione, naturalmente non mi sono fatta mancare effetto notte, lo diremo a Roberta Giordano che tornerà domani sera regolarmente, e solo per questa sera vi faccio compagnia io, Marta Cagnola, poi noi ci ritroviamo sabato pomeriggio. Pino chiede: Marta, e tu cosa hai fatto oggi? Ma io sono in radio, questo ho fatto oggi, io oggi sono venuta qui e poi torno a casa. Allora, ancora con Anna Marino, che è stata oggi appunto a Milano. Anna, che umori hai trovato? Fiducia, paura, voglia di ricominciare, voglia di stare ancora un po' in casa? Cosa ci racconti, Anna? Come avete sentito, i bilanci sono stati un po' in chiaroscuro, però si sono tutti trasformati, hanno riaperto negozi, bar, ristoranti, però non tutti, perché comunque nessuno è ancora certo, c'è un'incertezza nell'uscire, si va sul sicuro. Noi siamo andati a una trattoria, no? Alla Rava La Fava, in zona Sempione, che di solito, come sai, è affollatissima di persone, bar, ristoranti, eccetera, pochi ristoranti, solo quelli con, diciamo, il tavolo all'aperto, e tutti i ristoranti che ci sono hanno mantenuto, come dire, un po' la forza, ma si sono dovuti adattare. Sentiamo Clarissa Barkovic che cosa ci ha detto. Sin dal primo giorno di lockdown siamo rimasti aperti, sempre ci siamo riconvertiti immediatamente in delivery. Diciamo che il delivery, che non avevamo mai fatto, ha coperto i costi, che sono un 50% del fatturato normale. E fortunatamente siamo riusciti a coprire i costi, sono riuscita a mantenere i miei ragazzi e questo ha voluto dire molto. Arrivare fin qui è stato importantissimo. Per quanto riguarda, diciamo, le prenotazioni, oggi si riparte, quante prenotazioni avete avuto e quante normalmente ne potreste contenere? Oggi a pranzo abbiamo avuto una ventina di persone su un turno normale di almeno 90 persone. La perdita è stata ripagata dalla continuazione del delivery e della continuazione dell'asporto. Allora andiamo a sentire invece com'è andata la pausa pranzo a Roma, sempre dalle voci di Alessandro Arona. Stiamo ancora quasi a zero, perché praticamente tanti uffici stanno utilizzando ancora lo smart working, tante persone sono diffidenti, vedo anche che molti locali non hanno aperto oggi. Eravamo 7-8 dipendenti e attualmente sto provando con 3, ma siamo già in troppi, sono in cassa integrazione gli altri. Ora chiaramente gli alberghi sono vuoti, non c'è turismo, gli uffici sono ancora semi vuoti. I tavoli che abbiamo servito, molto pochi, 3, però si sono seduti fuori. Sì, abbiamo riaperto oggi. C'è qualche cliente? Insomma, si contano sulle dita della mano. Certo, se è un locale che va avanti con tutto personale, davvero gli conviene stare chiuso. Lavorano tutti da casa. Io normalmente facevo almeno 5 volte, 6 volte quello che faccio adesso. I vostri dipendenti sono? Ce ne abbiamo uno solo su 4, l'altri 3 ancora stanno a casa. Cassa integrazione, mi duole dirlo. E questo è il chiaroscuro anche a Roma, nelle voci raccolte da Alessandra Rona. Grazie ad Anna Marino. Anna, grazie, spero di rivederti presto in redazione. Con questo sì, lockdown persona, non ci... come hai sentito, tutti con le mascherine, le interviste un po' intubate. Non ci vediamo da 2 mesi, Anna. Un abbraccio, a presto, Anna. Sì, torniamo. A presto, Anna Marino. Adesso parliamo di cinema, perché oggi è stata una giornata con un dispiacere. Chiedo perdono al Signore per quello che sto per fare. Devo parlare a Lui e a voi con sincerità. In questi giorni ho pensato molto a voi e purtroppo ho capito di non essere in grado di sostenere il ruolo che mi è stato affidato. Io sento di essere tra coloro che non possono condurre, ma devono essere condotti. In questo momento posso dire soltanto: pregate per me. La guida di cui avete bisogno non sono io. Non posso essere io. Abemus Papam di Nanni Moretti. Il Papa in crisi di coscienza, un film amatissimo, un film che è valso ad Nanni Moretti, appunto alla pellicola Tre David di Donatello, uno come migliore interprete a Michel Piccoli, che è scomparso oggi all'età di 94 anni. E ne parliamo con uno dei più bravi critici cinematografici d'Italia, Mario Sesti. Ciao Mario! Ciao Marta, come stai? Insomma, oggi abbiamo riaperto. Oggi stiamo riaperti. Stiamo riaperti e riapriranno anche i cinema, Mario. Riapriranno. Ecco. Mario, continuiamo a dire monumento del cinema francese, ma anche italiano, ma anche europeo. Cosa possiamo dire di Michel Piccoli? Era ormai una presenza. Era una presenza normale, familiare. È qualcosa che ha colpito molto la scomparsa di un attore, anche se così anziano. Dunque, credo che ci siano molte ragioni, così tante che ho difficoltà adesso a scegliere per prima, per dire. Innanzitutto, quanti attori viventi c'erano che avessero lavorato con Buñuel, Renoir, Hitchcock? No? Per esempio, per dire, diciamo, dei nomi ancora più giganteschi. Poi, diciamo, la filmografia è già una ragione, no? Per cui questo attore era, secondo me, senza pensieri, diciamo, non voglio andarci così, diciamo, con diplomazia. Secondo me era il più grande attore europeo in circolazione. Non so, appunto, per la filmografia straordinaria, per cui ha lavorato praticamente, appunto, con i grandi del cinema del dopoguerra, ma anche con tutti i più grandi del cinema moderno: Godard, Bellocchio, De Oliveira, Ruiz, Ferreri, Varda. Ha fatto dei film del noir, del polar, come Sauté, Chabrol, Pierre Garnier de Fer, Melville. Però io vorrei dire qualcosa di più concreto. Non so, la cosa che secondo me rendeva grandissimo Michel Piccoli. Innanzitutto, io sono convinto che tutti i grandi attori hanno uno stile di impassibilità al cinema, cioè tutti i grandi attori sanno come essere espressivi restando fermi, proprio perché il cinema, a differenza del teatro, amplifica qualsiasi cosa che fai, e quindi bisogna essere capaci di essere espressivi in maniera involontaria. Di fronte a un primo piano tutti diciamo qualcosa, no? E quindi la capacità di controllare significa innanzitutto ridurre, stilizzare al massimo la propria capacità di esprimersi. Poi però, in quella grande ondata che è stata il cinema, come dire, antiborghese della fine degli anni 60, voglio dire, da Dillinger è morto fino alla grande abbuffata, fino a tutti i film di Buñuel, la forza di Michel Piccoli è stata in qualche maniera di aver dato, come posso dire, una sorta di eleganza e innocenza all'abiezione, ecco, cioè tutto ciò, il grande pozzo buio che ci portiamo dentro, lui lo sapeva esprimere sullo schermo con una forma quasi di innocenza, ecco, in qualche modo. Mi ricordo, mi è sempre rimasta impressa una scena di Salto nel vuoto, un film di Bellocchio, con quale lui poi ha vinto la Palma d'Oro. La Palma d'Oro nell'80, sì. Esatto, lui è un magistrato, un misantropo, che non si è mai sposato, vive nella solitudine, ha dei convegni amorosi con una donna che frequenta così per ragioni, diciamo così, semplicemente di natura così, come posso dire, saltuaria, rapsodica. Dopo aver fatto l'amore, la accompagna verso la porta e poi c'è lui, dice fermo, sembrerebbe che in qualche maniera voglia dargli un ultimo gesto di affetto prima che di lasciarla, e invece gli dà il sacchetto della spazzatura da buttare. Ecco, ma lo fa senza disprezzo, senza indulgenza, no? Con la semplicità con la quale qualsiasi, anche noi a volte ci rendiamo conto di fare delle piccole, grandi abiezioni o brutalità che appartengono probabilmente al nostro conformismo, al nostro egoismo, alla natura del ruolo sociale, eccetera. In questo, secondo me, lui è stato immenso. Io non ricordo una volta, no, in cui Piccoli di fronte allo schermo non abbia, che posso dire, messo a posto un oggetto, si hanno dato una cravatta, abitato una casa, ha preparato un pasto, oppure non abbia soppresso un amante come fa in Nero e Morto, senza che lo spettatore non abbia avuto l'impressione che lo abbia fatto uguale identico, senza, anche se non ci fosse stata la macchina da presa. Sì, che un gesto vero. Di un attore. Cioè, vero. Ed dava l'idea che non solo tutto gli venisse semplice e facile come hanno gli attori, no? Ma che dietro tutto questo ci fosse comunque lo stile di chi lo fa, per l'appunto, con una forma di innocenza, indipendentemente dagli effetti morali che questo produce. Poi Marta c'ha una faccia che sembra disegnata, c'ha quei basettoni, quelle fedine bianche, quelle sopracciglione di carbone, no? Sembrava disegnato da Ugo Pratt, ecco, sembrava che cioè, la stempiatura che gli dava una luminosità enorme, no? Quella mezza calotta su cui si rifletteva la luce. Ragionissima. Mario, ti devo ringraziare perché siamo giunti alla fine del nostro effetto notte. Ma come mi fa piacere ogni volta sentire Mario Sesti. Un abbraccio grande, Mario. A presto. Noi invece ci ritroviamo tra poco per il giornale radio delle 22. Che peccato, non abbiamo tempo per leggere tutti i messaggi. Giovanna di Figline Valdarno è andata a messa. Sergio è andato al bar anche se non ha un abitué, solo per bere il cappuccino. Marco è andato a bere un pirlo a Brescia, se non sapete cosa cercatelo. Anna Maria da Vicenza ha fatto più o meno le stesse cose. Beh, ci ritroviamo tra poco con il giornale radio.